Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, appuntamento con il calcio internazionale, oggi in particolare con Fabio Tavelli, condannato, buonasera, collegato con noi da Sky Sport 24. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, è un piacere. Sì, un piacere, me lo immagino, anche perché appunto il... Forse ho appena letto un'agenzia che riguarda Tonellotto, devi sapere, caro Fabio. Tonellotto, formidabile e prestigioso Tonellotto, ex presidente della Triestina. E mi è rimasto quello che dava le diete ai giocatori. Bravissimo, le diete ai giocatori, che poi la formazione lui la lasciava anche fare agli allenatori, purché prima la sottoponessero al cognato. Queste sono alcune delle amenità di Tonellotto, che se ne potrebbero raccontare. Tonellotto è perché è intervenuto in diretta a sorpresa da noi un mesetto fa circa. Ah. Certo, si è prenotato per un intervento più lungo, eccetera. Malauguratamente l'hanno arrestato stamattina. No. Sì, l'hanno arrestato stamattina perché deve scontare una condanna definitiva per aver sottratto 4 milioni di euro alla Triestina, per l'appunto. E nel frattempo lui pensava di fare sindaco di Trieste, telefonava a Radio 24, eccetera. E purtroppo allora il lapsus iniziale del condannato, piuttosto che cosa, probabilmente derivava da questa agenzia appena arrivata. Dunque, come sta sto Schalke 04? Che squadra è? Come, perché insomma, nel panorama di quelle rimaste, all'Inter è toccato oggettivamente una con cui si è già scontrata e anche scornata in passato, però attualmente diciamo che è quella più misteriosa. Sì, secondo me è la più facile, nel senso che è più facile anche dello Shakhtar, per la verità è una squadra senza grandi individualità. Non ha Klaas-Jan Huntelaar, che è tornato a casa, forse ci sarà per il ritorno, e ha qualche problemino in difesa, anche se recupera Metzelder, che si è fratturato il naso nella partita di venerdì contro il St. Pauli. Intendiamoci, stiamo sempre parlando di Metzelder, non di un fenomeno, ed è una squadra sostanzialmente che Rangnick ha ridisegnato con il 4-4-2 e che io credo giocherà a San Siro con estrema cautela e giocherà una partita di sincero contenimento, insomma, con Edu, che è un giocatore che non segna dall'inverno, dallo scorso inverno, e cioè diciamo dal 2010, e con Raul, che è sì certamente un giocatore a grande passato, 70 gol e tutto il resto, però insomma stiamo sempre parlando di un giocatore sul viale del tramonto, che ha un'esperienza millenaria in Champions League, ma che è contenibile a maggior ragione se non ha dietro di sé una squadra in grado di rifornirlo costantemente di palloni. Interessante è Jefferson Farfán sulla destra. Sì. E diciamo che anche Jurado sulla sinistra qualcosa può combinare, però insomma sostanzialmente io credo che un Inter normale questo quarto di finale lo chiude in 90 minuti. Sì. Quindi il problema allora non è tanto com'è lo Schalke 04, ma com'è l'Inter. Come sarà l'Inter? Beh, già sappiamo che l'Inter sarà un Inter diversa, perché ragionevolmente Leonardo torna a un modulo più consono, e quindi Eto'o va a fare coppia con Milito, che in questo caso rientra, con Sneijder dietro, di fatto punta di un rombo, e con Stankovic, Deo Grazia in campo e non in panchina per Pandev. E va bene, e quindi su San Siro grosso modo ci siamo. Poi sentiremo qualche voce di vigilia, a cominciare da quella del rientrante Milito. Ho letto da qualche parte che c'è una grande promessa in panchina di questo Schalke. Sì, questo Draxler è un giocatore interessante, è un giocatore che tra l'altro ha segnato un gol di notevolissima fattura contro il St. Pauli, ed è un ragazzo molto giovane e di ottima prospettiva, però stiamo sempre parlando di un ragazzo, e stiamo parlando di un giovane che secondo me comunque giocherà qualche spezzone di partita, e lo rivedremo presto, perché insomma mi sembra che abbia, io l'ho visto in un 2-3 partite, non di più, mi sembra che abbia dei movimenti interessanti, soprattutto sia in uno stato di grazia notevole. Infatti nell'ultima partita ha sempre giocato molto bene e spesso ha segnato, quindi fare attenzione. Credo anche che potrebbe essere magari una mossa a sorpresa di Rangnick nel secondo tempo, perché ripeto, Edu non è un giocatore pericoloso, Gavranovic è infortunato, Huntelaar è già tornato a casa, quindi diciamo che le bocche da fuoco dello Schalke 04 sono abbastanza limitate a Raul, e quindi questo Draxler potrebbe toccare anche a questa grande promessa Draxler. Poi parleremo più tardi di un'altra grande promessa in un altro campionato, e per questo è stato il collegamento di idee. Prima volevo soffermarmi un istante su questa partita di cui tu hai parlato, cioè di Schalke, quella vinta dallo Schalke col San Paoli. Sì. L'altra sera, venerdì, in anticipo Bundesliga, e però sospesa a 30 secondi dalla fine sul 2-0 per lo Schalke, perché io ho visto le cose abbastanza, una incredibile per la Germania, che è questo bicchiere di birra arrivato sulla nuca del Guardanina, che ha fatto sospendere la partita, ma ho anche visto 3 o 4 scarpate che non vedevo da tanti anni, di quella volgarità nel calcio di oggi. Sì, è vero, non è stato un bel venerdì sera e non è stata una, come dire, un'immagine memorabile quella che la partita ha lasciato. Devo dirti che tra le due preferisco sempre le scarpate, nel senso che sì, beh, fanno sempre parte del calcio, poi c'è chi è capace, chi meno, e chi la butta anche per disperazione su questo genere di modi di comportarsi. La vera immagine brutta è davvero, perché oltretutto è stata anche pescata alle telecamere, insomma, vedere questo bicchiere che tra l'altro in maniera quasi miracolosa rimane pieno, sì, fino al momento di incocciare sulla nuca del guardaline, che non si è fatto niente per fortuna, perché il bicchiere era di plastica, però lì non ci hanno pensato più di 20 secondi, è partita immediatamente sospesa. E tanti saluti direi al St. Pauli, che si beccherà una squalifica memorabile e ripartirà dalla Zweite Bundesliga l'anno prossimo. Dunque, è un destino un po' parallelo, mi pare, quello di stasera, che lega Leonardo a Mourinho. A parte che in genere, no, mi sembra di ricordare che dopo le belle vittorie, le prime belle vittorie o grandi vittorie di Leonardo alla guida dell'Inter, Mourinho ha sempre telefonato prima, insomma, sì, si leggeva sempre qualcosa del genere. Invece stavolta, dopo sto 0-3, non ho letto da nessuna parte di telefonate. Questo è molto molto curioso, se vogliamo. Evidentemente non gli ha telefonato davvero. Beh, però bisogna vedere qui chi telefona a chi, perché chi telefona a chi, anche Mourinho ha preso la sua sabato sera. Ecco, appunto, ha preso anche la sua tostata pure lui. Quindi mi pare che proprio sia una cosa comunque parallela quella di stasera, perché giocano entrambi in casa la prima partita, giocano entrambi con una squadra abbordabile, il Tottenham forse un po' meno abbordabile dello Schalke, e tutte e due però insomma, hanno un'insidia non da poco, perché Leonardo, insomma, perché l'Inter detiene la Coppa Campioni, e perché il Real Madrid, insomma, no, non può permettersi di toppare un'altra volta ancora. Guarda, mutuando il programma che ti segue, Gigi, i destini sono incrociati, ma anche parecchio, perché il destino di Leonardo, cioè il campionato non è perso, ma quasi, ma diciamo che è compromesso dopo il derby di sabato. Il campionato di Mourinho se n'è andato sostanzialmente dopo la sconfitta con lo Sporting di Gijón. Però tutte e due possono dire, Leonardo può dire, beh, insomma, io ho preso una squadra che stava lontanissima e almeno l'ho portata a fare la volata, cioè diciamo che può lasciare a Benitez la parte peggiore, no? La bad company della stagione, mentre invece Mourinho può sempre dire che con i punti che ha fatto il Real Madrid lui avrebbe stracciato chiunque in tutti gli altri campionati. Verissimo. Il Real Madrid ha una grande sfortuna, cioè sta nella stessa nazione del Barcellona in questo momento, altrimenti avrebbe fatto polpette di chiunque. Resta però il fatto che adesso arrivano le coppe, e nelle coppe invece Leonardo e Mourinho devono giocarsi davvero la loro nobiltà, perché Mourinho è lì per vincerla questa Champions, o quantomeno per arrivare in finale, e Leonardo pure, perché Leonardo comunque ha preso la squadra come nella stessa posizione di Mourinho l'anno scorso, e ha un calendario tendenzialmente più facile, perché Mourinho si prese il Chelsea al primo turno, che è sicuramente più forte del Bayern di Monaco al primo, preso da Leonardo, al secondo Schalke e CSKA, bene o male, sono la stessa cosa. Diciamo che in semifinale Mourinho si prese il Barcellona, cioè l'ostacolo più alto possibile. Leonardo può prendersi o il Chelsea o il Manchester United, cose importanti, ma non a livello del Barcellona. No, certo. E quindi diciamo che le coppe, perché ci metto anche quella del Re e quella italiana, la Coppa Italia, sono il vero terreno di confronto tra Mourinho e Leonardo e la stagione precedente, o il fatto di avere o meno una stagione vincente. Certo, senza dimenticare anche quella del Re, di cui tra poco diamo le coordinate. Facciamo questo breve intervallo per sentire come va il traffico. Ho già capito, scrive Stefano da Brescia, che lei vuol parlare di Thiago Alcantara. Anch'io sono rimasto folgorato, scrive questo ascoltatore. Beh, insomma, siamo in due. Adesso a Thiago Alcantara ci arriviamo. Eravamo rimasti alle date con Fabio Tavelli. Dunque, campionato, insomma la Liga ha appena reso noto che questo super classico di ritorno, cioè la partita di campionato, si gioca il sabato prossimo, quindi sabato 16 aprile alle 22. Alle 22. Poi quattro giorni più tardi, il 20 aprile, credo alla stessa ora, ma qui non è ancora precisato, a Valencia c'è la finale secca di Coppa del Re tra Barça e Real, in questo caso in ordine alfabetico. E poi all'inizio di maggio c'è questo, anzi tra la fine d'aprile e l'inizio di maggio c'è l'eventuale doppio confronto di Coppa. E va bene. È un intasamento di calendario che ci vorrebbe un ministro degli interni qui per metterlo a posto, però è vero, rischia davvero di diventare una, l'abbiamo definita l'altra settimana, quasi una serie da NBA, perché se il Real Madrid elimina il Tottenham come tutti pensiamo e il Barcellona elimina lo Shakhtar come tutti pensiamo, insomma ci prepariamo a vedere questa partita quattro volte nel giro di pochissimo, insomma. Certo, dunque va detto che la Liga è praticamente chiusa con 8 punti di vantaggio del Barcellona, tra l'altro maturati proprio nella giornata in cui, giocando fuori casa Villarreal, Barça è molto rimaneggiato, rischiava semmai di vedersi eroso il vantaggio, invece l'ha raddoppiato per la sconfitta casalinga preventiva, tra l'altro, del Real. Però ho visto un Real molto sfortunato, perché sinceramente nell'ultimo quarto d'ora di assalto, dopo il gol che hanno preso, se ne fanno solo tre, ne faceva pochi, pali, stinchi. No, ma non stiamo parlando di una squadra in difficoltà, no, stiamo appunto, parlando di una squadra che in queste situazioni butta dentro tutta l'anima del suo allenatore, cioè lascia un po' perdere il fioretto e va dentro con lo spadone in maniera pesante. E anche con tante assenze, comunque è una squadra che lo Sporting di Lyon 10 volte su 11 lo asfalta, poi c'è la volta che non va dentro mai. Senti, e così arriviamo a queste due A del Barcellona che mi affascinano entrambe. La prima è quella di Abidal, che leggevo adesso, ieri ha fatto una passeggiata, è andato a trovare i compagni in ritiro, ha fatto una passeggiata, è stato operato da poco, no, di questo tumore. 12 giorni mi sembra una cosa mamma così. Mamma mia. E va bene, e quindi Abidal, come dire, già riaggregato se non altro ai compagni, perché pare che tutto davvero sia andato liscio. Tutto è andato davvero molto bene, in maniera non sorprendente, però in maniera splendida, perché se ci ricordiamo, Abidal aveva giocato una partita di campionato pochissime ore prima di finire sotto i ferri, e tra l'altro con un'operazione che era stata prevista in un giorno e anche poi anticipata, quindi data la gravità. Poi può anche essere, io non sono un medico, ma può anche essere che il chirurgo, una volta, perdonatemi il termine, aperto, abbia anche trovato una situazione magari migliore di quella che temeva, però stiamo sempre parlando di qualcosa di serio. Certo, di molto serio. E siamo arrivati a questo Thiago Alcantara, sì. Ho una piccola schedina sotto gli occhi, nato l'11 aprile 91, l'11 aprile 91 vuol dire che tra una settimana scarsa compie 20 anni, a San Pietro Vernotico, che è il paese dove è cresciuto Mimmo Modugno, che non era un calciatore, ma insomma, era uno che a cantare e a scrivere canzoni se la cavava discretamente, Domenico Modugno. Ma è vero sto Thiago Alcantara è figlio di Masigno? Guarda, è figlio di Masigno, è nato in provincia di Bari, e quindi ha una particolarità, che lui è nato sul suolo italiano, è di passaporto brasiliano, ma in questo momento, ma lui ha scelto la nazionalità spagnola, quindi ha giocato ha fatto tutta la trafila e sta facendo la trafila, e ha anche vinto qualche titolo con la nazionale spagnola. È peccato, ed è un peccato. È anche vero che lui in Italia c'è stato veramente poco, perché poi Mazzinho giocava nel Lecce e poi è passato alla Fiorentina e poi è andato via. E poi ha scelto di vivere in Spagna. Mazzinho, non dimentichiamocelo, è uno che ha vinto un mondiale nel 94 giocando da titolare anche alla finale a Pasadena contro l'Italia. La finale contro l'Italia, certo. Non un brasiliano dai piedi vellutati, un brasiliano alla Dunga che un brasiliano alla Zico, sì. però un giocatore interessante, insomma, che il suo l'ha fatto, non ha demeritato nel campionato italiano. Ha questo figlio del quale ormai si dice che abbia già come caratteristiche migliorato il rendimento del papà, di Thiago Alcantara si parla già da un paio d'anni, perché lui ha fatto davvero tutta la trafila nella cantera del Barcellona, e Guardiola lo conosce molto bene perché lo ha avuto nel Barcellona B, anche nel campionato che loro hanno vinto, Ed è un giocatore che quest'anno ha visto per la prima volta il campo da titolare contro il Villarreal. La particolarità di questo ragazzo è che intanto non è altissimo e non è un colosso, però nel Barcellona mi sembra che non se ne preoccupino più di tanto, no? Se i centimetri o i chili non sono granché. Questa è la prima regola, mi pare, per tutti. E poi sembra uno che fa questa cosa da sempre, cioè non ha ancora 20 anni, è entrato nel meccanismo e ha dimostrato come in questo caso al Barcellona, ma è una situazione che non viene ripetuta quasi mai a livello mondiale, tu cambi gli strumentisti ma il prodotto rimane quello, cioè nessuno si è accorto, magari sì, ma... Però, chi è stato sostituito non è stato rimpiazzato, ma veramente per niente. Però guarda Fabio, sabato sera finito il derby di Milano, rapida scanalata sul Barça, ripresa dallo stadio Villarreal in campo un pochino lungo, mettiamoci pure che le diottrie non siano più assolutamente perfette, però ho passato i primi 5 minuti con questa ripresa leggermente da lontano a dire: ma Xavi non era squalificato, ma no, non sto scherzando. Ma perché ci somiglia un po', alla cioè, lui ci somiglia per come si muove, per come corre, per come occupa il campo, per come smista la palla, per come la gioca di prima. Questo sembrava il professor Xavi, che è il più grande centrocampista del mondo. E allora in quei pochi minuti e poi nel secondo tempo ho capito perché il Barça forse ha mollato la pista Fabregas. Beh, ce n'è uno in casa di 20 anni che ho tanto. Guarda, costa 2 lire meno forse, no? Ho letto un articolo del 2008 nel quale già si parlava di Thiago Alcantara, quindi stiamo parlando di quasi 3 anni fa e quindi stiamo parlando di un sedicenne, quasi 17enne. E già si diceva in Spagna il Barcellona, che già da un po' di tempo sta sotto a Fabregas, può prendere tranquillamente Fabregas perché Thiago Alcantara non gli è alternativo, cioè è un giocatore che si può accoppiare a Fabregas, proprio perché di questo Thiago Alcantara si parla già da tantissimo tempo. E se 2 anni fa, o anzi 3 anni fa, già si diceva prendete pure Fabregas perché Thiago Alcantara comunque può giocare accanto a Fabregas, vuol dire che loro lo consideravano già, ma non solo un prospetto, ma una realtà. Ora, che se ne parli adesso, a distanza di tutto quel tempo, forse può dimostrare che il frutto sta maturando in maniera normale e non esageratamente veloce. Le occasioni per questi ragazzi di giocare non sono tantissime, perché anche Bojan Krkić è uno che ha 20 anni e gioca pochissimo, e ce ne sono un paio d'altri in panchina del Barcellona che il campo lo vedono poco, ma perché è normale, perché devono giocare gli altri, perché sono gli altri i fenomeni. Però vedrete che ne parleremo e ne sentiremo parlare tantissimo. Non c'è dubbio. Tu intanto beccati questo piccolo meno in geografia da un tuo omonimo milanese, Fabio da Milano, perché San Pietro Vernotico è in provincia di Brindisi, secondo questo ascoltatore. Può anche essere che sia... io ho un Bari 11 aprile 1991. Allora, si è già scatenato... Franco Piantanida, che conferma, il notaio conferma Brindisi, e quindi... No, che questo paese sia in provincia di Brindisi può anche essere, sarà certamente così. La scheda mia dice, beh, però... La scheda tua dice che Tiago è nato direttamente a Bari. Lo chiederemo non solo a papà Masigno, ma anche, perché qua ho un'altra schedina che è stata da fuori, ma anche alla mamma, perché la mamma, a sua volta, Valeria Alcantara, un ex pallavolista di buon livello, quindi insomma, questo è davvero... Davvero, come dire, un prodotto di alta qualità. Senti, ci restano una quarantina di secondi per 2 cose velocissime. La prima è che Rooney ha beccato 2 giornate e salterà non solo una di campionato, ma anche la semifinale di Coppa, perché evidentemente è diverso il regolamento lassù. Esattamente, perché comunque la Football Association è anche la tenutaria della Coppa, dell'FA Cup. Non è male, certo. Ecco. E comunque Rooney ha tempo fino alle 19 per provare a tentare ancora di presentare una memoria difensiva ed essere ascoltato per vedere di farsele ridurre. Credo che non gliele ridurranno. E quindi vuol dire lì è proprio un docoio-coio, no? Sulle squalifiche, cioè tu sei fermo e qualunque manifestazione tu debba giocare, mentre in Italia per esempio si distingue tra campionato, Coppa Italia, cioè. L'altra è che ho letto una doppia paginata dell'Inserto Gazzetta dedicato a Ferguson, che dovrebbe essere le sue ultime partite col Manchester. Mi sembra di capire che ha cambiato idea e che impressione, insomma, ci va poi con calma. No, non ci va assolutamente. Ecco. No. Beh, ma là dove sembrava l'ultima stagione questa. No. secondo me è un falso totale, nel senso, ma non è colpa sua, lo si dice almeno da 10 anni che la prossima potrebbe essere l'ultima, ah. non è così. Non. Lui è un po' come Mazzone, cioè fa e farà molta fatica, poi dirà quando ha finito che adesso sta a casa, gli piace portare in giro i nipotini e tutto il resto, ma sono persone che sono talmente legate al loro lavoro e a anche a quei colori che non... Certo. È molto difficile, molto difficile. A domani, Fabio. A domani, grazie, ciao a tutti. Grazie, quanto a noi, ci risentiamo tra 3-4 minuti ascoltando 3-4 contributi vocali, secondo me davvero interessanti, in particolare quelli di Fabio Capello, poi ospitando i vostri interventi a commento della giornata internazionale e non. A più tardi. Beh, ci sono dei messaggi divertenti oggi, particolarmente da Trieste, dove la notizia di questo arresto di Tonellotto, anche se una notizia d'arresto non è una notizia allegra, insomma, diciamo che ha messo discretamente di buon umore alcuni tifosi della Triestina. Invece Damiano da Roma scrive: secondo lei Doni non è stato l'errore più grande di Montella? Io vedo che continua a non riuscire a tenere le gambe strette. Tanto non stiamo parlando di Rubi, no? Damiano, stiamo parlando di un portiere che in uscita, soprattutto quando è così alto, così lungo di statura, sì, tende come dire, un pochino a quel genere di movimento. Anch'io avrei scelto l'altro portiere, avrei scelto Julio Sergio, perché mi sembrava più, però è lui che gli ha sotto gli occhi, che gli ha sotto mano. Qualcosina gli è già costata la scelta di Doni, e non soltanto su Matri, a parte il fatto che su Matri domenica in ogni caso è solo davanti a portiere Matri, per cui in qualche maniera lo infila, diciamo che non aveva calciato così bene, che quindi forse un minimo di rimedio in più ci poteva essere. Allora, voci di vigilia, intanto quella di Milito, che rientra stasera da titolare dopo un'infinità di tempo. Credo che di te sto bene fisicamente, ho lavorato tanto in questi giorni, ultimi giorni, ho raggiunto anche una buona condizione fisica, ovviamente mi mancherà o mi manca ancora un po' di ritmo calcistico, diciamo, un po' di giocare, partite, guadagnare minuti, però sono tranquillo, contento di ritornare ovviamente, sicuramente con tanta voglia, soprattutto tanta voglia di essere in campo, di dare il contributo alla squadra dopo tanti giorni fuori, vedere partiti fuori, quindi sto bene, mi sento anche bene, però sicuramente mi mancherà un po' di ritmo, però questo lo guadagno con le partite. Su questo non c'è il minimo dubbio. Mezz'ora, poco più, l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro di Mexès, intervento che è stato effettuato stamattina dal professor Mariani e che costringerà Mexès però a una degenza abbastanza breve di non più di 3-4 giorni per poi iniziare la fase di riabilitazione a Trigoria, anche se non ci sarà più Trigoria poi nel futuro di Mexès, qui non verrà rinnovato il contratto, questo è un addio già deciso prima di questo infortunio. Una parola sul Siena, domanda un ascoltatore, che vince, che torna in Serie A, bentornato, ben consapevole che è interesse di pochi. Beh, certo, voglio dire, le squadre di provincia, sia pure una provincia meravigliosa come Siena, per mille e una ragione, hanno un po' meno appassionati, no? Rispetto alle grandi squadre metropolitane. Questo ascoltatore, si chiama Nicola, segnala un giocatore che se raddrizza un po' i piedi va dritto in nazionale, che si chiama Bolzoni. Bolzoni, perché c'è un errore evidentemente di battitura, proviamo a stare sulla fiducia. Massimo, chiamato da Salerno, buongiorno. Buon pomeriggio, sono il dottor Garanzini, sono Massimo, chiamo da Salerno. Senta, ho avuto un'impressione, praticamente è stata quella che l'Inter, premetto che sono un tifosissimo delle Azzurri, abbia un pochino snobbato il derby per la Champions, perché secondo me una squadra che mira al vertice della classifica non può prendere gol al primo minuto. E un'altra cosa, se me lo permette, vorrei fare gli auguri di buon onomastico a Enzo Biazzotto. Grazie, l'ascolto. Gli auguri di buon onomastico? Ah, perché oggi è San... Non ho capito, Massimo. Grazie, buon pomeriggio. Sì, vabbè. Grazie a lei. Ma io credo che insomma, la storia del calcio sia piena di gol incassati entro il primo minuto e non non necessariamente per aver snobbato la partita. Lei ha parlato di Berzotti, io ricordo che il mondiale di Argentina, che è stato dal punto di vista qualitativo il più bello giocato da un'Italia di Berzotti, si aprì con un gol di Lacombe quando erano in Italia-Francia, quando erano trascorsi, non ricordo esattamente, ma credo, non, a me è rimasto 31 secondi, così a spanne, comunque diciamo mezzo minuto circa. Non credo che l'Italia fosse andata in campo sottovalutando un debutto mondiale. È che i gol si possono prendere alla fine, come si possono prendere pure all'inizio. L'Inter ha sbagliato partita, ma per altre ragioni, non credo per aver sottovalutato il Milan. Come si fa a sottovalutare un avversario in un derby quando sei staccato di due punti e se li batti gli salti davanti? Non credo, insomma, sembrerebbe molto, molto strano. Fabio Capello, allora, è stato ieri a Turi a ritirare il premio Oronzo Pugliese. Oronzo Pugliese è stato un celebre allenatore, un celebre e molto pittoresco allenatore degli anni del calcio degli anni 60, che fu allenatore di Capello alla Roma. Ritirando questo premio, Capello ha ricordato un aneddoto di questo suo ex allenatore. Sentiamo. Un ricordo meraviglioso, perché fece il salto di qualità, passai da una squadra di Serie A come la Spal per una squadra importante come la Roma, con ambizioni di classifica. Fu il mio primo allenatore vero, un allenatore che ricordo con grande affetto, soprattutto per la carica che dava a tutti i giocatori durante le partite, durante gli allenamenti. Una cosa che mi è rimasta sempre in testa fu una partita che preparammo prima di giocare Milan-Roma, e durante la tattica parlò con Ferrari, che faceva il mediano, e dice: tu picciotto, mi devi portare l'orecchio di Gianni Rivera a fine partita, io ti do un bacio. Sì, ecco, diciamo che la tattica di allora era per l'appunto un pochino pittoresca, no? Ma quello che ha ricordato Capello è un episodio gustosissimo, ma soprattutto è un ritratto di Pugliese per chi se lo ricorda. Voleva significare certamente non una cosa così cruenta quanto il fatto di stare appiccicato a Rivera, di non mollarlo mai, nemmeno per un secondo. Allora la marcatura uomo sul grande talento avversario era la base di ogni approccio, a proposito di approcci, a una partita di calcio. Daniele, provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno, signor Galanzini. Sentivo con nostalgia le parole di Capello. Mi ricorda un calcio un pochino meno tattico, se vogliamo, meno atletico, però sicuramente più tecnico di quello che c'è in giro adesso. Tornando sul discorso lì che facevate all'inizio, visto che è una giornata dedicata al calcio internazionale, noto che una volta erano le squadre avversarie, quando sentivano parlare di Milan, Inter, Juve, che si preoccupavano. Adesso ci fa un po' paura anche lo Schalke, e questo mi spaventa un pochino, vuol dire che il calcio italiano è messo un pochino proprio male. Mentre invece sento che quando si parla di Barcellona, allora sono le squadre che devono incontrare il Barcellona, anche a questo punto inizio si preoccupano. E guardavo qual era la cura per risollevare il calcio italiano, forse prendere allenatori un pochino più, non lo so, un pochino più seri, un pochino più navigati, perché a quanto pare non riusciamo né col settore giovanile, che è il fulcro di tutto il calcio, a portare dei giocatori tipo invece scuola del Barcellona. Io sugli allenatori non la penso assolutamente come lei, a parte che di allenatori bravi ne esportiamo all'estero. Parma mi fa venire in mente immediatamente Ancelotti, l'ultima agenzia appena uscita un istante fa dice che spera di rinnovare col Chelsea, ma insomma, tra Ancelotti, Spalletti, Capello, eccetera, non è che ci siano pochi allenatori italiani bravi all'estero. Io, vedendo, leggendo, ascoltando, vivendo anche un po' da di dentro la situazione del calcio italiano, credo che se avessimo dirigenti minimamente all'altezza dei nostri allenatori, credo che il calcio italiano sarebbe molto condizioni molto ma molto migliori. Non so, secondo lei tra Deglio Rossi e Zamparini, ma proprio così per fare due nomi a caso di attualità in questi giorni, il più professionale dei due chi è? Cioè, ci fidiamo di più di un presidente come Zamparini o di un allenatore come Deglio Rossi? Io credo che non le debba neanche rispondere. Ma io credo che questo esempio, che ovviamente adesso è un po' facile da fare, se vogliamo, ma credo che possa essere allargato a tante tante altre casistiche, perlomeno questa è la mia impressione. Torniamo da Fabio Capello, perché in questa occasione, a parte il delizioso aneddoto che ha ricordato su Ronzo Pugliese, nella stessa occasione a Turi ieri ha anche parlato di corso Scudetto e in particolare di Napoli. C'è ancora una partita importante, il Milan ha un calendario difficile, ci sono altre squadre che possono inserirsi, penso anche al Napoli che sta facendo molto bene. È un campionato ancora aperto, ancora tutto da decidere, dipenderà molto dalle prossime gare e soprattutto dall'impegno che ha l'Inter con la Champions League, che è un impegno molto gravoso, e si sa che quando si gioca su questi fronti a fine campionato diventa molto difficile per tutti essere competitivi. Napoli ha una squadra che da metà campo in avanti è molto molto pericolosa, perché ha forza, qualità e soprattutto inventiva. Per cui bisogna fare i conti con il Napoli, che nella sfortuna è fortunato a non competere nelle partite di Coppa Europea. Eh sì, chissà se avrebbe scelto così quella sera con Villarreal, non è sembrato dall'impegno che il Napoli ci ha messo quella sera, eppure il Villarreal l'ha eliminato e quindi al Napoli ora non resta che puntare sul campionato. Dario ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Una gentilezza, una sua opinione sul, sento adesso parlare del Milan lì, di Gattuso e quant'altri per i rinnovi di contratti, ma se vogliamo migliorare e ringiovanire questi signori, alcuni di questi, sarebbe ora di dirgli grazie mille, arrivederci, con tutto quello che hanno fatto, per l'amor di Dio, sono contentissimo di quello che hanno fatto e ancora stanno facendo, però se vogliamo ringiovanire qualcheduno sarebbe anche magari ora di dirgli basta. Perché no? Il Milan non ha questa politica in genere, un po' negli ultimi anni, ma un po' anche per tradizione, che da un lato è molto bello, perché il Milan è sempre stata una società grata e legata ai suoi campioni, comunque a quelli che meglio hanno con più profitto e con più risultati hanno indossato quella maglia. Da un lato, dicevo, è molto bello questo aspetto di gratitudine, dall'altro non c'è dubbio che porti a un eccesso di invecchiamento della rosa in media, e quindi io, nel caso che ha fatto in particolare di Gattuso, anche per i comportamenti degli ultimi tempi, io sarei d'accordo con lei. Dunque 14:45:30 e quindi gli ultimi aggiornamenti dalle strade. Un 5 aprile nella storia dello sport italiano, forse del calcio in particolare, raccontato da Nicola Filippone. Sembra ieri. 5 aprile 1992. Il Toro di Mondonico conclude una settimana intensa aggiudicandosi il derby per 2-0. Decide il brasiliano Walter Casagrande con 2 gol in 7 minuti, entrambi propiziati da iniziative dello spagnolo Martin Vázquez. L'area del derby non fa sentire la stanchezza ai granata, che il mercoledì precedente avevano disputato al Bernabéu contro il Real l'andata della semifinale di Coppa UEFA, perdendo 2-1 con un prezioso gol messo a segno proprio da Casagrande. E il KO nel derby per la Juve di Trapattoni significa di fatto l'addio definitivo alle speranze Scudetto. Il Milan di Capello, che infligge alla Sampdoria campione in carica un netto 5-1 in una sorta di passaggio di consegne, si porta infatti a più 6, mettendo una seria ipoteca sul titolo. Mauro, chiamato da Modena, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Noi ci siamo sentiti 3 settimane fa riguardo a chi dava del tuo al pallone nei campi, soprattutto per quello che riguardava la mia squadra, che era Juventus. Io devo dire che no, mentre adesso ci sono tanti brio rispetto a una volta, e ho visto che l'ultima domenica di campionato c'è stata un'azione emblematica che ha visto Pepe a tu per tu col portiere della Roma, invece di tirare la porta ha mirato il portiere a 2 metri, quindi ho detto tutto, volevo una sua considerazione, l'ascolto per radio. Ma insomma, non è poi messa così male a piedi la Juventus, cioè io non trovo poi che il calcio in generale sia così meno tecnico di un tempo. Una squadra tecnica come il Barcellona credo non averla mai vista nella vita, perlomeno non la ricordo. soprattutto se si tiene conto di un parametro decisivo in questo genere di valutazioni, che è la velocità in rapporto alla tecnica. Altro è la tecnica esibirla giocando a 15 all'ora, dico un numero a caso, e altro a giocare a 30 all'ora con la stessa tecnica. Il Barcellona riesce ad accoppiare queste cose, secondo me è una squadra miracolosa addirittura, ma non è l'unica, perché in molti in Spagna come in Inghilterra, forse un po' meno in Germania, anche in Italia in certi gare ci sono fior di giocatori che hanno una grande tecnica e riescono ad accoppiare la velocità. Poi certo, il calcio più lento consentiva tecnicamente qualcosa di migliore e di più diffuso da quel punto di vista, ma non è così trascurabile. E nella Juventus in particolare, sì, certo, se parliamo di linea arretrata e soprattutto ai due centrali, i piedi sono abbastanza di gesso, non c'è dubbio. Però Grosso, per esempio, il mancino di Grosso di domenica sera, certo, bisogna che stia bene, però non è affatto un brutto piede. Aquilani il piede ce l'ha morbido e come. Krasic è uno che al pallone dà discretamente del tu, insomma, non mi sembra così messa male da un punto di vista strettamente tecnico, ecco. Lucio, Verona, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garassini. Volevo dirle, intanto non mi pare che il Milan sia così riconoscente nei confronti dei suoi ex campioni, perché Gianni Rivera è stato completamente dimenticato, credo di sapere il motivo, ma comunque insomma lo sanno tutti il motivo, però un campione come Gianni Rivera andrebbe ricordato un po' meglio dal Milan. Beh, comunque negli ultimi tempi c'è stato un ravvicinamento e poi Gianni Rivera fa parte di un'epoca diversa e quindi... Beh, certamente, però insomma è uno dei più grandi campioni che ha avuto il Milan. Su questo non c'è nessun dubbio, però sa, nelle nuove dirigenze, soprattutto quelle che sui trofei costruiscono anche fortune di altra natura, c'è sempre la tendenza a considerare che quella società è nata col tuo avvento. Vale per il Milan dall'86 in avanti, ma vale per il Napoli da De Laurentiis in avanti, vale un po' per tutti. È una debolezza che hanno diciamo i nuovi proprietari, questa. Poi volevo dirle che la aspettiamo al Vinitaly qui a Verona, perché so che lei è un amante del buon vino e qui adesso in questa settimana c'è questo appuntamento molto importante internazionale. Ci vediamo giovedì, difatti, ci vediamo giovedì da uno stand, credo che sarà nel padiglione Trentino, se ho letto bene la scheda. Comunque la spedizione sta per partire, è una spedizione che non riguarda soltanto me evidentemente, ma che riguarda tutta Radio 24, perché da giovedì a lunedì avremo per l'appunto questa postazione fissa come tutti gli anni, che come tutti gli anni è a rotazione, e allora quest'anno saremo nello stand nell'area del Trentino. Lucio, grazie, non vorrei, sì, poi ci sarà spazio ancora per un paio di vostri interventi, ma non vorrei nel frattempo perdermi l'occasione di ascoltare una raffinata voce da intellettuale, che è quella di Antonio Cassano, che ha spiegato così la sua espulsione nel derby di sabato sera. Gol, ammonizione, espulsione, record mondiale, anche per questo andrò nella storia. No, ma io a dire la verità, il secondo fallo, quando ho fatto fallo su Cordoba, ero convinto di prendere l'ammonizione, però non mi ricordavo dell'ammonizione precedente, che mi ero tolto la maglia. Ero talmente felice e contento che in quel momento là non capivo più niente, però va bene, un'altra ingenuità che ho fatto, che pagherò sulla mia pelle. Mamma mia, è passato del tempo indubbiamente da quella prima ammonizione per essere levata la maglia, perché era almeno 40 secondi erano passati, quindi è chiaro che non è poi facile sempre fare, no, di questi collegamenti, sono già... 40 secondi in certi casi possono già essere impegnativi. Poi è vero che quella maglia si era sfilata giusta per un istante in maniera impercettibile, no? Per chi ricorda la sequenza, perché se l'è levata in maniera teatrale, l'ha tirata in tutti gli angoli dello stadio e ha fatto il mezzo giro di campo senza maglia. Quindi forse è anche per questo che si era distratto e non se ne è ricordato, povero. Luigi da Pisa, buongiorno. Sì, salve, volevo dire una cosa ai vari ascoltatori che hanno chiamato ieri per polemizzare. Io dico una cosa, secondo me il calcio è visto così, ogni partita trasmette delle emozioni e queste emozioni sono le cose più belle che possono rimanere negli occhi di chi vede una partita, di chi la vive. Sì. Perché state sempre a pensare a rigori dati, non dati, a queste minuzie che secondo me non hanno niente a che vedere? Quindi la invito sempre a tagliare queste persone che retoricamente parlano di queste cose, ma parliamo di bei giocatori. Luigi, questo è quello che... No, io sono d'accordo con lei, per carità. Se lo dice lei, io... Cioè, se lo dice un ascoltatore, mi fido. E quando lo sento dire in maniera pelosa, che mi fido un po' meno, perché, per esempio... Questa è la tesi che ha sostenuto Mazzarri ieri, no? Mi pare domenica ieri Mazzarri dice: ah, beh, insomma, intanto il Napoli ha meritato di vincere. A, non era assolutamente vero. B, ha vinto anche grazie a qualche episodio. Vogliamo fare tutti così? Perfetto. Da quando cominciamo? Cominciamo da adesso e ci dimentichiamo di quante volte Mazzarri ha pianto invece, ma gratis però, non come ha legittimamente pianto la Lazio domenica. Di quante volte ha pianto gratis, che insomma, non, mi sembra di ricordare che non fosse così il caso. Vabbè, tanto ne riparliamo un'altra volta. Non c'è il tempo per ascoltare un lungo file audio sulla vigilia di Leonardo, sullo Schalke 04 e su Raul. Ne parleremo ampiamente domani dopo il turno di Coppa di stasera, che vi ricordo riguarda, oltre che Inter Schalke, riguarda anche Real Madrid Tottenham, mentre domani sera ci sarà forse la partita più attesa di questi quarti, e cioè il derby inglese tra Chelsea e Manchester United, e poi il Barcellona contro lo Shakhtar Donetsk. Per il momento grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Franco Piantanida in redazione. Appuntamento domani e vi lascio al giornale radio.